wee. Dust bone a troubled sea. Channing got a raging storm. Headed for shore, bring a certain calamity. Just when you thought you'd frighten none, can be nothing worse than this catastrophe. Ja, bring down fire and brimstone, carry a stony heart like Pompeii. This lack of dinner of fire, eyes burn with ash looking on Ayakan. Blazing across horizons fire, feeling something wicked this way comes to town. Better run, run, run, run. There's a man's son with a gun. But it's the hard rain gonna come. Blast you down before you turn to stone. We live in too bad time. It's too late. Some say they be waiting for the right time. Right time, the horizon ceased and had the sunshine. No matter, cause all tides rise, it's all ships at the same time. Since I'm hurling down the street side, sinking deep below the quagmire. The other mates go down, down, down to no time. What we gonna do? Absolute power corrupts, it's the absolute truth. Lies be the devil's forbidden fruit. Don't you pick a bad batch to in its youth. Living like a bad seed, making choices, yeah, you just can't see how the outcome destroys and deceives what your twisted heart just perceives. Yeah, I mean, I'd be made of stone to bring out the worst in me. Sure, I might be made of stone. You're my anchor when I'm sinking. This monster lives underway, on the bottom of the sea. In a cave, no one can say, or see, or find, or feel me. Better run, run, run, run. There's a man's son with a gun. But it's the hard rain gonna come. Blast it down before you turn to stone. Yes, people, questo è Porto Real. Bentornati a tutti e a tutte. Puntata del 28 di giugno, un prefestivo come è qui a Roma. E intanto salutiamo tutte le amiche e tutte le amiche che ci ascoltano in diretta e quelli che ci riascoltano tramite podcast. Siamo in diretta sempre dal Brancaleone dopo due settimane in cui siamo stati fermi. Stasera una serata ricca qui al Brancaleone, c'è stata la presentazione dei fumetti di Scuola Popolare, fra poco partirà la proiezione di Astracult, ci siamo noi con Porto Royal e Pirate Radio. Un'oretta fa c'è stata un'altra trasmissione, insomma veramente una ricca giornata in quel del Brancaleone. Un saluto particolare al nostro fratello Taueli in quel del Nord per il One Love Festival. E noi iniziamo la puntata così. Thank you. e fra poco andremo anche con l'intervista telefonica a Brisco. Fra poco, fra un'oretta. E nel mentre anche un cambio mic. Pirates to wicked city shake up like Port Royal. Who really loyal? If all that matters to a man is survival, peace in them side, just a peace in them pride. Wishing rest in peace to their rivals. E questo è Porto Royal, tutti i mercoledì dalle 21 alle 23 in diretta solo ed esclusivamente dalla bolla del Branca. E anche per questo motivo per due settimane ci siamo dovuti fermare, in quel de Branca abbiamo subito un po' di danni causa piogge, ma siamo tornati come sempre più forti di prima. Un ringraziamento speciale a tutti i ragazzi e le ragazze che sono stati qua per 2 giorni a spalare acqua e non solo. E intanto, detto questo, questi erano un po' di tune nuove. Un ringraziamento e un saluto a Tauli, che siamo in attesa che ci fa sapere se lo riusciamo a contattare telefonicamente. È stato un weekend, quello trascorso, in cui c'è stato il Bergamo Reg Sun Fest, anche per questo motivo il nostro fratellone si trova in quel del nord, e noi abbiamo una sorpresa, anzi il nostro Tauli ci ha fatto una sorpresa. Questa sera l'ascolterete in anteprima, poi piano piano anche in diretta, o meglio live. E andiamo così. From Rome sound. Bad sound, don't fear that no sound. Kill all idiot zinc pan sound, and the better know that. Now big up Tolo Lee, and big up Ush, and big up Fire upon Babylon. From Rome sound. Bad sound, don't fear that no sound. Kill all idiot zinc pan sound, and the better know that. Now big up Tolo Lee. And big up Ush, and big up Smash, and the man a no sound system thing, see? So let her, make her nice up the land, man. Run it! Horace! Sleepy and the cellar. Oh, yeah, yeah, yeah. Whoa. Ruling sound, yeah. Brividi. I call it down sound. Sound killing. That is what Fire upon Babylon do. Yeah, taking you a dark light. Fire, taking you a special fire. Can I help you? Old pan could I never help you. Yeah, taking you a 4-5 smash. Taking you a LP smash. Can I help you? Dead punk could I never help you, y'all. So if y'all keep on playing out of scratchy hole that I place, you will get 6 foot. Oh, yeah, yeah. Those them fire pan roll, y'all. Make them know what you do dance on. From the mic to the cemetery, you are very good. Oh yeah, that freedom no sound, yo. Him rule them all. With a uptown, a missa, or downtown. To the east, west, north, or south. Fire pine road, kill them and come back alone. You pick him up, you lick him down, he bounce right back. Had something in every contest. Smash out of bass. Skylarking. That is what drum band sound fight to your sound killing. Sound killing. That is what the Wally do. Oh, yeah, yeah. Those them Babylon, yeah. Know why you moved on so. From the mat to the cemetery, you are buried them, yeah. 6 foot 6, yeah. Are you a lay them to rest, yeah? Could I never rise again, yeah? Oh, Babylon, you rule them all. È un duplet fresco di weekend, fresco dal Bergamo Reg Sun Fest. Andiamo, proseguiamo la nostra puntata così, in attesa di contattare. Di chi era sto dub plate? Scusami, di chi era sto dub plate? Lo dobbiamo dire, anzi, dillo tu. Orazio. Ora è nonno Orazio, di nonno Orazio. Nonno Orazio Andy, è lui. Ora Sandy King. E questa era Port Royal con il dub plate di Fire Upon Babylon, direttamente dal Sunfest di Bergamo, grazie a Tavoli, nostro Brody. Aspettiamo sempre che ci dia il via per poterlo contattare. Vediamo se facciamo una live insieme a lui. Anche perché effettivamente sarà un po' Bergamo, sarà un po' il nord, ma noi l'abbiamo sentito ben poco. Questo vuol dire che è tutto a posto. Quando lo sentiamo troppo vuol dire che qualcosa non ci sta. Però appunto, magari una telefonata stasera non starebbe male. Andiamo con un altro pezzo e poi torniamo in diretta sempre qua su Port Royal, tutti i mercoledì dalle 21 alle 23 in diretta su www.pirateradio.it, ovviamente dalla bolla del Branca. Prince Production. Vital juice, yeah. Me a move, she a move. I'm in the mood, make a move. I'm in the mood with my dancing shoes and make a move. Come in closer. I'm in a mood, in a mood for your love. In love with your smile and feel of your touch. I know that really make me want you so much. The way how you present yourself in a public, I wanna see the closer you come to me, the more I need your remedy. She just loves the good vibes, good times with me. She a move, she a move. Me a move. She in the mood, make her move. She a move, me a move. Under me herbs and me vital juice. Me a move, she a move. Il buon vecchio Otello ti avrebbe detto e basta con sto reggaeton. Ti direbbe ancora, eh. Ma c'ha ragione, solo che queste sono shun fresh, quindi bisogna passarle, insomma. Smile and feel of your touch. Another rhythm make me want you so much. The way how you present yourself in a public, I want nobody, just you, my darling. We gon' dance all night long, right till the morning. Yeah, she a move, she a move. Me a move, she in the mood. Make a move. Il nostro Otello è impegnato su a Bergamo, però vi manda a tutti un abbraccio. No, a Bergamo, scusatemi. Su Al One Love, in quel del Trentino. Mesh Pondi Control. A sound system dub style. Un po' di dub. Sound System Girl. E a proposito di sound, nonostante l'acqua, il nostro sound si è salvato alla grande. Un genere all'altro, Port Royal dub style prima con Sound System Girl, e ora Soul of the World, Barrington Levy, Stick Figure, listen. It's the soul of the world. I've been finding a good time. All the troubles that we had, when darkness took a hold of my mind, I know it's all inside my head. L'estate è già qua e noi la accogliamo così. E che gli dice Barrington Levy? Chun! Oh, friend. Easy now, Mr. Boogeyman. Easy now. Politician man, I'm wondering what you got in your plan. Is it education or inoculation? Are you working for the people or the corporation? And everyone in a high position, I can't breathe under your regulation. We try to make some money, but you let the city off. Even though we're not sick, not even a cough now. Easy now, so me go so then. Easy now, the older we your friend. Easy now, politician man. Easy now. Cause him have up the gun in him bag, bag. Him a kill off the youth and a scare off the mother and dad, dad. Him moving too broad and too big like him rad, rad. And every time you squeeze the trigger, people gone and they make people sad, sad. Easy now, Mr. Gunman. Easy now, the older with your friend. Easy now, so make us a den. Easy now. Ciao a tutti amici, sono Bulla di Afghan Night e volevo salutare tutti gli ascoltatori di Post Royal e Fire from Babylon. Restate sintonizzati, seguite programmi come questo, supportate la reggae music. Yes, I! Buona sesso! Wiki! Cool it out, cool it out, show all our web again. Cool it out, hey, cool it out, oi oi oi. In the place, brought a jade upon the case. Oh, yeah. Hey, I see you looking my way every day, you know. Ready to rock? Andiamo ad ascoltare una traccia di un amico nostro che ormai è di punta ogni lunedì con il suo programma Neron Empire. Ehi DJ, è uscito il video pochi giorni fa su YouTube, correte a vederlo, correte ad ascoltarlo. Listen. Ciao compare, tu sei il DJ? Ciao compa, sì. Piacere, Francangelo. Piacere. Ma tutti mi chiamano Sweps. Piacere, io sono... Sai, anche io faccio il DJ a tempo perso, insomma, però anche produco, canto, insomma, un artista 360, anche se nella vita lavoro col mio papà nell'azienda di famiglia. Oh, okay. Stasera mi raccomando, fammi divertire, mi devi suonare assolutamente quel pezzo di Cenzino, Pantone e Giovanni Marley. Mamma mia. Arrivo al primo locale. andare diretto tranquillo ma con fare blando. Si attacca addosso ed è subito al collo fin da quando monto l'impianto. Ma come faccio per dirglielo comunque per fargli capire comodo pacato che lui continuando a parlare così mi sta solo deconcentrando. Mi fa richieste ancora prima che accenda le casse. Delimita il suo territorio come fa un Jack Russell. Mi dice sai per la Giamaica ci esce pazzo. Giamaica sì, Giamaica no, Giamaica cadu cazzo. Compare mio, ma va vatte piglia una bironata così vive che pago io. Basta che ti allontani 5 minuti da qui porco di zio. Se già cominciamo a così, caso sullino Brasil, me venete dice addio. Io che stasera avevo tanta sete di dancehall. Questo mi sventola il bicchiere sopra la console. Mi parla di rispetto perché ha più anni, ma per l'attrezzatura a me che cazzo paga i danni. Ehi DJ, mi metti quella lì. Scusa sono sbronzo e non ricordo di chi. Ma guarda come stai. Io sono un DJ, non sono mica Spotify. Ehi DJ, mi metti quella là. Scusa sono bronzo e non ricordo come fa. The Beatbot Radio Show di Nerone ogni lunedì in diretta dalle 18 in poi su www.pirateradio.it. Eppure davanti le casse liste. Il vescovo a Costantinopoli se si disarci vescovi scostantinopolizzasse. Io resto sopra la panca e come la capra campo bene. Tu stai sotto mentre la capra crepa campi male. Quindi lasciami fare compare, lasciami stare. Grido come Pappalardo, lasciami suonare. Tickete tacati tac tacumi tacami. Mino tacati tacati. Su pasto ridi ma tacati. E balla con mio amo compare mi. Potessi suonare fino alle 6. Davvero ti giuro che lo farei. Solo perché amo fare il DJ. Basta che il posto mi dia l'ok. Sempre pronto a schiacciare play sulla canzone che vorrei selezionare dopo di quest'ultima e dedicarla ai fratelli miei. Quindi momo se ci sei e vuoi restare fino alle 6, urla forte insieme a me. Ehi DJ, mi metti quella lì. Sono sbronzo e non ricordo di chi. Ehi compa, ma guarda come stai. Io sono un DJ, non sono mica Spotify. Ehi DJ, mi metti quella là. Scusa, sono sbronzo e non ricordo come fa. Ehi compa, ma ovvero come sta. Mi sa se è fatta l'ora che dai a curca. Arriva primo al locale con fare blando. Si attacca addosso da quando monto l'impianto. Ma come faccio per dirgli o comunque fargli capire che parlando così mi sta deconcentrando. Mi fa richieste ancora prima che accenda le casse. Delimita il suo territorio come fa un Jack Russell. Mi dice sai per la Giamaica ci esce pazz. Giamaica sì, Giamaica no, Giamaica catu cazz. Tickete tacati tac tacumi tacami. Mino tacati tacati. Su pasto ridi ma tacati. E balla con mio amo compagno. Potessi suonare fino alle 6, davvero ti giuro che lo farei. Solo perché amo fare il DJ, basta che il posto mi dia l'ok. Sempre pronto a schiacciare play. Tutti i lingue compare. Selezionare dopo di quest'ultima e dedicarla ai fratelli miei. Quindi momo se ci sei e vuoi restare fino alle 6, urla forte insieme a me. Ehi DJ, mi metti quella lì. Scusa sono sbronzo e non ricordo di chi. Ehi compa, ma guarda come stai. Sono un DJ, non sono mica Spotify. Ehi DJ, mi metti quella là. Scusa, sono un bronzo e non ricordo come fa. Ehi compa, ma ovvero come sta. Mi sa se è fatta l'ora che dai a curca. Ehi DJ, mi metti quella lì. Scusa, sono un bronzo e non ricordo di chi. Ehi compa, ma guarda come stai. Io sono un DJ, non sono mica Spotify. Pulo! E beh, un pull up doveroso. Abbiamo fatto i saluti al nostro compare Nerone che va in onda tutti i lunedì con The Beatbot dalle 18 alle 20. Ma non potevano mancare i saluti ai nostri fratelloni dei Kawa Sound, anche loro in quel del One Love Festival. Noi gli dedichiamo questo pezzo come lo dedichiamo a tutti gli amici e tutte le amiche che si stanno sbattendo per realizzare questo festival. Ma un particolare appunto i Kawa che vanno in diretta tutti i giovedì dalle 21 alle 23. E ora mi raccomando, ve vogliamo vedere son pacco le ginocchia al mento. Vai smash. in modo diverso, ma le ginocchia si muovono sempre. Avervi fatto saltare un po' con le ginocchia, un po' di relax. Sesso, Port Royal, Pirate Radio, ogni mercoledì, on site, big up on site. torniamo con un po' di relax. Wanted, Lilay K. Mama, your son is wanted. Him sit down in a yard, but him wanted. And do the might not change. Bello tutto. Ma un big appone a tutte le lady che ci ascoltano in diretta e tutte quelle che ci riascoltano su canali di Pirate Radio. And do they might not charge him. I said the gallows and the guillotine of calling. Him buy a lady soldier and the sarge. Lock the place him and him entourage. Off your yard, you carry talk to ward. Tell me why your boy you want so bad. Remember when them turn around the gun. Now you realize a your time has come. Hard to live your life upon the run. Now so bad, my knife look so fun. When you dip on mattress in a bush asleep. Wake up in a shootout with police. Off the pile and pop up in a jeep. Is this the life you really want to lead? Now see the all your daughter start to teeth. What them a go do when she ask? And what that he gone? Mama, your son him wanted. Him sit down in the yard. They bought him wanted. And though they might not charge him, me set the gallows and the guillotine. If you know me. Pressure you arrest for mommy. The pain should be a real gosh when she did have you in her tummy. I see you want identify your body, your family. Them tired for your bag and ball. I know them here you wanted. Sit down in the yard, they bought you wanted. I know they might not charge it. Oh gosh, the gallows and the guillotine. If you know me mean, mama, your son him wanted. Come direbbe qualcuno, a tutti gli innamorati, a tutti quelli che si vogliono innamorare d'estate, in spiaggia, al mare. Questa diciamo che è più per chi vuole godersi la spiaggia. Manu Digital, Persian Girl, Back in the Days. E già te ci vedo al Calabria Sound Festival. Spiaggia, piedi nudi, Mega Sound. 28, 29 e 30 di luglio giù in Calabria, il Calabria Sound Festival, ovviamente giù in Calabria. Compari Sodi, Magic Beat, Impulsi di Vita Magic Beat, Camping Poker e tanti altri sponsor che hanno dato sì alla realizzazione del Calabria Sound Festival con vari artisti. Non ve li riferisco solo perché dovete andarveli a cercare, ma soprattutto a sto punto che stai spoilerando tutto, prossimamente parleremo appunto del Calabria Sound Festival, magari intervisteremo qualcuno dei compari Sodi. Yes, sai. Come on, the place and pick up the bike, it's a silent. luci nella notte riscaldano questa dancehall. Music all night long, fire from Babylon. Quello che ti dico è che la gente non capisce cosa vuole dire dare veramente anima e cuore per la musica. Sì, per i massicci, per la mia messi. Va così, mo rapido e intrepido. Toweli col microfono subito. Quando scaldano il pubblico, fagli pulito subito, subito, subito. Nuova moda, boga, boga, roba, doba, rock steady, boga, boga, rock it, clap it, please don't stop it, move it, whine it, really be fire upon party, fire upon Babylon, fire upon Babylon. Questo è il sound di Roma. Babylon, Figa Botello, Osh, Smash, Hilario, Boom Shot. Vedo luci nella notte. E tra poco chiameremo anche Brisco. Music all night long, fire upon Babylon, yeah. Ancora luci nella notte, scaldano questa denso. Te lo risentirei. Balla signorina che io ci metto la rima e la rio passa la puntina che faccio una mena mena mena i timpani per le pischelle, per i pischelli. E va così, mo rapido intrepido. Toweli col microfono subito. Quando scaldano il pubblico, fagli pulito subito, subito, subito. Nuova moda, boga, boga, roba, doba, rock steady, boga, rock it, clap it, please don't stop it, move it, whine it, ready for fire pump party, fire pump Babylon. E piano piano ci prepariamo all'intervista a Brisco. Un'intervista che dovevamo fare 2 settimane fa circa, poi purtroppo per problemi di allagamento dello spazio siamo stati costretti, e ringraziamo Brisco per la disponibilità a farla questa sera. Ma andiamo così. Supporta Port Royal Pirata e Radio tutti i mercoledì dalle 21 alle 23. Più fuego! I'm e a tutti quelli che sognano un'isola felice, meno rotture, più rispetto. Che pippone che sto a fare. Only positive vibes, ma con la voce di un podcast. Hush. Smash. Ciao Lì, anche se non è qui presente, sempre con noi. Fire upon Babylon Sound. Ogni mercoledì con Port Royal dalle 21 alle 23 su www.pirateradio.it. E questa sera, sempre come ogni sera, in diretta dal Brancaleone. It's the promised land, boy. It's the promised land. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Yeah. Said we're riding on the King's Highway from a Cairo to Kenya. Made a stop in Asmara, then we made another one in Addis Ababa. The promised land. E questo è Port Royal tutti i mercoledì dalle 21 alle 23. Questa è quasi la fine della nostra quarta stagione. There's a lot of work to be done, oh God, in the promised land. E senti Smash come seleziona. Lila che è sul rhythm. Second Chance. Quasi tutti abbiamo bisogno di una seconda chance, con una second chance. E ci siamo quasi, eh? Brisco al telefono finalmente. Ci senti Brisco? Però non siamo noi a sentirti fuori. Adesso scopriremo l'arcano. Come sempre noi boomer. Vediamo se sentite ragazzi. Ecco, ecco, ora sì, ora ti sentiamo. Era solo il jack da dover collegare meglio. Perfetto, perfetto. Allora, come stai? Tutto bene, ragazzi, tutto bene. Voi avete risolto con il disastro, purtroppo, che è successo? Sì, sì, abbiamo risolto, abbiamo risolto. Dopo due settimane siamo ritornati ufficialmente nella bolla del Brancaleone che ci ospita ormai da un anno e mezzo a questa parte. Periodaccio perché è stata tanta acqua inaspettata, ha allagato completamente lo spazio, tutto lo spazio, compreso il sound che fortunatamente lunedì abbiamo testato, ringraziando il nostro amico Fulvio, qui il tecnico del Branca, ed è tutto a posto, quindi siamo fortunatamente siamo anche sollevati da questa attesa di riaccendere il sound. Ora capiremo bene piano piano dove riattivarci. Ti ringrazio innanzitutto per il discorso che abbiamo dovuto rimandare di due settimane l'intervista, quindi ti ringrazio soprattutto per la disponibilità e, iniziamo, facciamoci questa piacevole chiacchierata, chiamasi anche intervista, ma a noi piace più definirla chiacchierata. Allora, Brisco, innanzitutto tanti saluti in quel del Salento, visto che sta in Salento, come si diceva, è iniziato il caldo. È iniziato il caldo e iniziamo subito con presentazione del tuo pezzo spettacolare, dopo lo ascolteremo. Stai grazie facendo mille, serate, ci stanno cose già in ballo, tu stai presentando questo nuovo pezzo? Sì, stiamo vedendo, stiamo organizzando qualcosa qui, sì, in Salento, stiamo vedendo di organizzare qualche evento. Ok, ok, ovviamente l'estate è appena partita, i posti sono anche si stanno iniziando a popolare soprattutto. Senti, raccontaci un po' di questo tuo pezzo che è uscito, quando è stato? Qualche settimana fa, insomma. Sì, sì, quasi tre settimane fa, sì. Sì, allora, il mio nuovo singolo si chiama Let Me Tell You, è una produzione Groovin' Up Record, tiene un sound abbastanza roots reggae. Diciamo è stato distribuito da Red Golden Green e la Grande Onda. Perfetto, salutiamo Virtus, salutiamo, scusami se ti ho parlato sopra, volevo salutare Virtus e tutta la Red Golden Green con la quale collaboriamo da un anno e mezzo a questa parte, ed è una piacevole collaborazione soprattutto perché abbiamo modo di conoscere artisti che obiettivamente anche tu hai un sound, insomma, italiano del tutto particolare. Scusami se ti ho interrotto. Grazie, grazie. Sì, come dicevo, abbiamo collaborato insieme, loro hanno fatto la pubblicazione tutto del pezzo, ringrazio anche Red Golden Green per l'aiuto, si può trovare anche il video ufficiale sul canale di Reggae Video. Ti sentiamo un po', anzi ti abbiamo perso proprio. Non è senti? Ora sì? Sì, sarà la connessione. Ok. Ora io mi sento. Perfetto, vai pure. Dicevi? Sì, come dicevo, si può trovare anche il video ufficiale sul canale di Reggaeville, sul canale di YouTube di Reggaeville. Il video è stato girato in Messico. Ah, ok, ecco questo. Difatti volevo chiederti qualcosa in merito al video, dove è stato girato, la regia, chi l'ha montato. Sì, guarda, essendo io gli ultimi 5 anni ho vissuto in Messico, l'ho girato lì nei luoghi dove ho vissuto ultimamente, diciamo nella parte caraibica della Riviera Maya, nella parte del Pacifico. Okay. Ed è stato girato da me insieme ad amici che mi hanno aiutato, comunque è stato montato da me alla fine. Lo hai già comunque registrato nel momento in cui vivevi lì o sei ritornato proprio per la passione di quel posto? Che ti sentivi più vicino, diciamo, a questo pezzo, mentre, diciamo. Mentre vivevo lì, che comunque stavo lì anche per suonare, abbiamo fatto tipo un mini tour in Messico e quindi, diciamo, ho approfittato anche di quei bellissimi posti, no? Eh beh, ovvio, come non capirti? Anzi, pure dal video potete ammirare i posti che dove ha vissuto il nostro Brisco. Con Let Me Tell You e il video che ha registrato direttamente lì. la distribuzione di Red Golden Green, che ringraziamo sempre, come diceva prima Osh. Andiamo ad ascoltare prima il brano e poi proseguiamo con altre chiacchiere insieme al nostro Brisco. Let me tell you. Yes, sir. Brisco on the version again. There's a curfew tonight. There's a curfew tonight. All the people come to see a revolution is what we need. Cut the music, we try to speak to the fans and Torniamo qui in diretta con Brisco. Brisco, ci senti? Buono, secondo me. Sì, vabbè, già stava già una. Ma che farà di sé? Brisco? Yeah, sì, sì. Perfetto, ci siamo, ci siamo. Allora, complimenti perché un pezzo veramente particolare, una voce anche bellissima. Volevo chiederti... Chi ha, cioè, un rhythm che prevede altre collaborazioni, è un tuo pezzo che hai anche musicato? Raccontaci un po' qualcosa di questo Let Me Tell. Ti ringrazio innanzitutto. Guarda, questo pezzo inizialmente l'ho scritto con la chitarra, diciamo l'ho strimpellato, così ho trovato gli accordi, ho costruito il testo. E dopo è stato risuonato da Grovino Record, che è una realtà salentina, un gruppo di ragazzi che suonano con la band e producono anche, e che comunque producono musica reggae, roots, rispettando le vere radici giamaicane, diciamo. Ed è nata questa collaborazione con loro, hanno sentito il pezzo, gli è piaciuto e hanno voluto, diciamo, interpretarlo nel loro modo, no? Così, diciamo, è nata questa collaborazione. Sì, infatti, buone vibrazioni, un reggae, diciamo che è un po' alle origini, cioè nel senso si distacca da quelle che sono le sonorità che provengono direttamente dalla Giamaica, anche che in Giamaica stanno producendo parecchia roba che non è più diciamo suonata come appunto il pezzo che hai presentato tu. E c'è anche un punto di partenza, c'è un qualcuno, un qualcosa che ti ha ispirato per questo pezzo? Guarda, diciamo la musica che ascolto in generale, io sono un amante del roots, reggae, sono amante anche di altri generi, dancehall, però diciamo quelle radici di quella musica un po' che ascolto tutti i giorni, anche come Bob Marley mi hanno ispirato, no? Per questo infatti abbiamo cercato di trovare proprio quel sound un po' old school. Esatto, infatti è proprio da quello che si ascolta, è proprio la ricerca di un sound originale, quasi proprio al ritorno, come hai detto tu, al roots, insomma, cosa che comunque in molte produzioni italiane ormai si sente poco, cioè l'ispirazione più giamaicana sono ritmi ben diversi da quelli del tuo pezzo, quindi complimenti ancora. Senti, io ho spulciato un po' qualche cosa, qualche tuo pezzo che hai pubblicato su YouTube, indubbiamente, e mi è piaciuto, mi ha colpito un pezzo che ora passeremo, che è High Grade, e, sempre produzione ovviamente Red God Green, se non mi sbaglio. Sì, è stato distribuito anche quello da Red Bull and Green, la grande onda, però quella è una mia produzione, diciamo, quello l'ho fatto, diciamo, è stato al 100% la mia produzione, e ho appunto cercato di unire un po' sonorità, un po' più reggae, dancehall, mischiando un po' questi piattini trap, diciamo un po' la musica del momento, sì, per esatto, cercare di fare qualcosa di diverso. Anche con un timbro duo vocale diverso dal pezzo che abbiamo ascoltato prima. Appunto, visto che casomai ne stiamo parlando, ascoltiamolo e poi ritorniamo qui proseguendo l'intervista. Andiamo con High Grade, Brisco. Marijuana, yes, the high grade. Big up all the ganja fama, the mafia legalize, 'cause we love the marijuana, yes, the E qui è d'obbligo il Pull It Up and Come Again, Mr. DJ High Grade Brisco, listen. Brisco, High Grade. Ed ecco noi sempre in contatto telefonico. Indica chalice, when the chalice of the blaze. Chalice, when the chalice, listen, come when the chalice, when the chalice, when the chalice of the blaze. Chalice, when the chalice, when the chalice. Alright, give me the ganja in the money, give me the ganja in the night. Come me no one, I no infama, me no one, no parasite. Yes, me do the things properly, me do the things right. Pass the chip on the left hand side. Give me the ahigwe, indica sativa. Give me me medicine, give me some marijuana. Yes, the ahigwe, pick up all the ganja fama. Them a fi legalize, cause we love the marijuana. Yes, the ahigwe, indica sativa. E ritorniamo in diretta con Brisco. Brisco, ci sei? Sì, sì, sono qua, sono qua. Perfetto, questo concedimelo, veramente una chun che esplosiva, insomma, che porta tanta vitalità. E una piacevole scoperta, ti ringrazio perché, detto brutalmente, tante volte non si conoscono artisti italiani perché purtroppo non ci sono, non c'è modo, insomma, se non appunto come noi di Pirate Radio che andiamo a spulciare, abbiamo collaborazioni che in questo momento, in questo mondo fanno solo che piacere. Quindi grazie Brisco ancora per il discorso che l'intervista è stata rimandata. E, senti, torniamo appunto su quello che tu fai, musica. Da quanto tempo fai musica? Da come sei partito? Cioè, sei sempre partito con reggae, black music, oppure ti sei affacciato, hai avuto prima altre conoscenze di generi che poi ti hanno portato al reggae? Guarda, diciamo, da piccolo la prima musica che mi ha appassionato è stata il reggae. E, diciamo così, è iniziata la mia passione per la musica, la mia carriera musicale, diciamo. E già avevo l'età di 13 anni, c'erano qui in Salento, comunque la musica reggae è sempre andata molto, no? Conosciuta come la Giamaica d'Italia. Esatto, e c'erano parecchie dancehall e eventi nel mio paese, quindi io ho conosciuto persone. E ancora ci stanno parecchie dancehall. Ci stanno ancora parecchie dancehall, insomma. Sì, ancora sì, grazie a Dio c'è ancora un movimento qui in Salento abbastanza grande. E, diciamo, così è nata la mia passione, ho iniziato le prime volte a cantare dal vivo, così sulle basi reggae, e da lì ho iniziato a scrivere, a registrare. Negli anni ho portato avanti questa passione, diciamo, no? Cercando sempre di migliorare comunque. E che uno degli artisti, diciamo, che ti ha appassionato di più a questo genere, che ti ha avvicinato, diciamo, boom, questo è quello che vorrei essere da grande, tra virgolette, avvicinarmi di più a lui da grande. Inizialmente gli artisti che mi hanno appassionato erano come gli artisti come Chiepleton, Sizzla, comunque la musica di Bob Marley, la musica reggae roots, no? Il movimento Rasta. Sì. Queste vibrazioni mi hanno appassionato molto dall'inizio, diciamo, quello mi ha dato questa forza per iniziare, no? Sì, quindi sono stati loro i tuoi profeti, ovviamente, come vengono? Diciamo, le grandi colonne del reggae, no? I più conosciuti, che all'inizio io ero quello che riuscivo a cercare, a conoscere di più, no? Sì, che sono, diciamo, si parte da loro, poi si scopre il mondo musicale, si può parlare, diciamo, certo, di, poi, di sì, loro grazie due a loro come... ho scoperto tanti altri artisti, esatto. Anche ho conosciuto gli stili differenti, i sottogeneri della musica reggae, e grazie anche a questo mi sono appassionato anche ad altri stili musicali, appunto ho approfondito altri stili come la black music, in generale ora amo tutta la musica, diciamo. Sì, è una cosa che, diciamo, accomuna un po' tutti. Si parte da un piccolo genere oppure da un artista, poi si scopre tutto il mondo dietro e ti appassiona. Almeno penso che per noi che siamo appassionati di questo genere sia stato questo il passo definitivo. Poi pian piano, step by step, siamo arrivati a conoscere un po' tutte le sfaccettature della musica reggae, black, anche perché fanno collaborazioni con artisti come Khaled, quindi artisti mainstream, e poi produzioni che ascoltano solo in Giamaica o gli appassionati della musica reggae. Certo, certo, sì, diciamo la musica è un viaggio, no? All'inizio alla fine ti accompagna e ci fa scoprire comunque tante cose, tanti artisti e tanti generi musicali, appunto. Perfetto, perfetto. Guarda, Brisco, l'ultima domanda, poi ti lasciamo ovviamente, ti continuo a ringraziare per la disponibilità. Ti ho chiesto prima, grazie, inizio puntata, appunto, se c'hai delle date o altro, ma soprattutto se hai anche altri progetti, brani che stanno in preparazione, uscite prossime, insomma. Sì, diciamo, ho vari lavori in corso, ho diversi singoli che devono uscire prossimamente. Sì, diciamo, vari lavori. Sto pensando anche nella preparazione di un album, chissà, per l'anno prossimo, così giusto per anche racchiudere un po' i lavori che ho, no? Quindi, esatto, spingerlo magari, così. Magari ci riascolteremo l'anno prossimo per presentare appunto questo nuovo album che hai in programma. Vabbè, live ovviamente suppongo che stai in organizzazione, anche perché appunto il Salento, come hai detto tu, è la Giamaica d'Italia. Stanno iniziando adesso gli eventi principalmente estivi, quindi sicuramente avrai già delle date. Diciamo, sono tornato da poco dal Messico, quindi non ho avuto molto tempo per organizzare, però sì, sto già organizzando qualcosa, sarà una mia serata al mio paese, nel paese in cui vivo, e comunque sì, ci sono vari eventi anche per agosto che stiamo cercando di organizzare. Quindi... Dove possono cercare, diciamo, i tuoi eventi, oppure i tuoi progetti, la tua musica? Persone. Sì, mi possono seguire sui miei social, io uso di più su Instagram e su Facebook. Sì. Diciamo, lì mantengo sempre aggiornato tutto. Perfetto, perfetto. Allora potranno cercarti tutte le date che saranno, spero, prossime sui tuoi social, e anche i progetti futuri, come diceva, come parlavi con Pietro prima, il progetto del nuovo album che ci sarà in futuro. Noi in questo caso ti salutiamo, ti lasciamo libero alla serata, ti ringraziamo ancora e ringraziamo Red Golden Green per averti portato qui a Port Royal, anche se via telefonica, digitale, e ti salutiamo con una traccia dei Sud Sound System, quindi la tua terra, e Capleton, uno dei tuoi pilastri, Day by Day, nuova uscita, quindi ti salutiamo così e ti saluta anche Osh. Grazie Brisco. Grazie mille, un saluto anche a voi ragazzi, un abbraccio, è stato un piacere, alla prossima. Alla prossima, siamo buona tornati. Serata. Big up, Red Golden Green, Pirati Reggae Radio, yes sai. Grazie mille. E ringraziamo ancora Brisco. E ovviamente un big upone a tutti gli amici salentini che ci ascoltano, a Mattune, ovviamente a tutti i Sound System. Massive, can you feel the love? Fire from Babylon. fire, fire from Babylon brings you higher. Give me the fire blaze. You are my sunshine, fire from Babylon, I'm yours. Food for my heart and soul, the only sound I need some more. Hey, massive, can you feel the love? I come fire from Babylon, I play massive. Can you feel the love? Hey, massive, can you feel the love? I come fire from Babylon, I play massive. Can you feel the love? Tra mezz'oretta di Port Royal tutti i mercoledì dalle 21 alle 23. E questa sera ospite con noi Brisco dal Salento. Tanta voglia d'estate soprattutto. A volte pare brutto stopparli certi pezzi e quindi, ma vanno stoppati, insomma, potrebbero andare in eterno, ma noi andiamo con un altro pezzo che dedico al fratellone Tauli, che spero ci stia ascoltando, altrimenti ci riascolterà tramite podcast. Hey yo, watch out now, real sound killing business. Not gamble alongside one dog pistols and freestylers. Watch out. E torniamo su ritmi un po' più veloci. Senti che robetta. Sound killer. E noi gli diamo dei pull up. Tanta voglia di sta su con i piedi sulla spiaggia di fronte a un bel sound. Sound, ha un sound killer. Questo è Porto Royal tutti i mercoledì dalle 21 alle 23 in diretta come consuetudine da un anno e mezzo a questa parte dal Brancaleone, e proseguiamo con un'altra tune. Natalie Rice, indistruttibile, inarrivabile. Ciu. tune. This movement I step, never let go, yeah, we're learning. Their institutions cannot teach, we're growing. Far beyond their borders, beyond their reach, our generations. There's no normality, so the perceptions you keep are not relevant to we. Emphasizing the best will be forward is a necessity. Heaven on earth attainable, utopia, no fantasy. Building a paradise while executing parasites. We cut like a razor, we walk like a hero, talk like a savior, touch like a healer. We dance like a fighter and spit revolution. We burn down all oppressors, beat down all illusion. I assure them, say we're children of the sun and show them how to restore their energy to love. Stand if you're ready for better the days. E che gli dici a uno con una voce così? Alongside Natalie Rice once again, Pandel. And we say, whoa, whoa, say, whoa, whoa, and we say, whoa, whoa. One question we have for them. What's going on in this world? It's like something is wrong in this world. From the moment you're born, yeah, you gotta be strong if you wanna live long. Automatically, Rastafari teach you unity and solidarity. Love for everyone embedded in my personality. Even though they want us to be the care just like a cavity, we still have come together no matter we nationality. Yeah, despite their economy and their verbal monotony, we're still seeking their sovereignty while resisting their fuckery. Stick with our liberty, our real responsibility to create possibilities that reclaim our autonomy. Looking like past at the seas, citizens and the debris, left to be wounded by war, refugees, victims of greed. E questa è una shun fresca fresca. This World, Natalie Rice e Kabaka. And the smartphones are using them, watching us on the music, we're popular. E ora passiamo a un altro pezzo, produzione Mango Sci-Fi. Rhythm General. Kiko Bon. DM for bad boy rhythm general. Mango Sci-Fi. Behind man in my peripheral. Please tell me that your confidence, yeah, the roots call you done know me. Come for my shit up in at the Trinity. You find me skanking by the sound system willingly. Skipping two step, me show up my ability. I can't seem to get enough of this is community. The way I love it all. Traveling and find the spice rum buckle that I be pocketing. And Lily junk it all. I tell him I don't mean no wrong. Him for the rubber dub, I love to sing along. But the bang, but the bang, yeah, he come out. I am a student at this music, I need a chance, so can you let me off? I travel far and wider for the sound and the vibes. Said I travel far and wider in search for the music. Music music is my mission, it's my chosen destination. An explanation to this younger generation. Places of encouragement, a hundred termination. Simba in a London, the central youth provision. They're closing all the old ones, but the new ones can't get open. Want to make me stop, but now I've started, so I'll finish. Ultime ciun per noi, ma potete riascoltarci tramite podcast. E poi mercoledì prossimo, sempre dalle 21 alle 23, Port Royal. This are the energy the people them been lacking. Reggae beat, this are not trapping. All who feel like them are tapping, really sleeping and them napping while me flying round the world. Think man a genie like Aladdin, and for water down the message just be streaming. I'm not having people in a foreign, say them not get no good music. So me go on in at the boot and then record like man a Cupid. Hit the target when me shoot it, it no hard to execute this lyrics. God me don't tell it for watch me prove it. Red, gold and green, red, gold and green. Wave the banner from you, know your soul clean. Red, gold and green, red, gold and green. Roots reggae music up in your bloodstream. Red, gold and green, red, gold and green. Every corner, every lane, every scheme. Red, gold and green, red, gold and green. Yes or nothing, know where we mean. Hear me now. Three colors run the four corners of the earth, the five oceans, seven seas, seven wonders of the world. Jah bust the seven seals and sound the trumpets. Have you heard of 1892, the 7th month, the 23rd? Unto us a son was given, unto us a child was birthed. The King of Kings, the Lord of Lords, I listen, I see, I the first. Some of them are weird, the colors, and them now do them research. Don't sing along just like we rehearsed. Red, gold, and green, red, gold, and green. Wave the banner from you, know your soul clean. Red, gold, and green. E Pirate Radio porta un po' di Red, Gold e Green in quel del Branca tutti i mercoledì dalle 21 alle 23. Yes, enough you know what me mean. Lock off Babylon, them heartbeat. When the Rasta starts speed, enough of them a blaspheme and a make a dark scene. Until we walk in with the red, gold and green, and every man turning a king, every woman turn queen. The red of it, the shedding up, the blood will set you free. The gold stand for justice and equality. The green is for abundance and fertility. And the lion stand for sovereignty. Red, gold and green, red, gold and green. Wave the banner from you, know your soul clean. Red, gold and green, red, gold and green. Roots reggae music up in your bloodstream. Red, gold and green, red, gold and green. Every corner, every lane, every scheme. Red, gold and green. E siamo arrivati ai saluti finali, un ringraziamento a tutte le amiche e a tutti gli amici che ci supportano e ci ascoltano in diretta, salutiamo tutti gli amici della chat di Pirate Radio di Telegram, un saluto anche a tutti gli amici e a tutte le amiche della chat di Reggae Mania, quindi ancora un saluto ulteriore ai Kawa che sono in quel del nord per il One Love Festival e un saluto al nostro ovviamente fratellone Tavoli al cui dedichiamo l'ultimo pezzo e niente, ci riascoltiamo settimana prossima puntuali dalle 21 alle 23, Port Royal. The land of the mystical and the majestic, where the plants glow in blessed, outdoors also domestic. This is Sardinia. Se sotto questa luna ti bacio ancora e suona il mare ai nostri piedi, perché tu non ti siedi davanti al paradiso per farne ancora una. La nebbia sale piano e piano tu mi sfiori, stanotte dormo fuori con te sotto le stelle, nel materasso fiori, la sabbia ancora calda, c'è tutta la mia banda. Pass me the blunt, I live in a land of the Jones. Pass me the blunt, pass me the blunt, pass me the blunt, pass me the blunt. Alivina di Landova di Jones, pass me the blunt, pass me the blunt, pass me the blunt. Yes, master, this is the land of the mystical and the majestic, where the plants glow in blessed, outdoor also domestic, this is Sardinia. La spiaggia illuminata e noi sopra una duna che guardiamo lontano, la nascita del sole e inizia la giornata circondato dai fiori. Parliamo del futuro che sembra ancora incerto, son positivo e penso qualcosa sta cambiando, ancora non mi arrendo, preparo ora la carico e dopo poi mi stendo. Pass me the plan, I live in a land of the Jones. Pass me the blunt, pass me the blunt, pass me the blunt, pass me the blunt. I live in a land of the Jones. Pass me the blunt, pass me the blunt, pass me the blunt. Plant flowers.